That you always says you're listening to Fabio B and Johnny and Move Fire every time, okay? Yeah. Big up. Code name Move Fire on the run. Code name Babylon Action. Code name Move Fire on the run. Radio Babylon Action. Well, we have the lyrics weapon. It brandish when the dance get ram. We start fling down the Roseman pattern. Full of knowledge and of wisdom. Some of them are come with an imitation. Born on the same day but a different pattern. But when you see the more fire show up on the run, you know say this your one when I ramp with the plan. Hey yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Under Rasta, massive every time. Right. Get up, Mr. Slow Coach, you're moving much too slow. Get up of your slumbering, there ain't much time to go. Get to stand and be a man, let the nation know your plan. The world is in a crisis, seeking humanity. Look into the Middle East. There ain't no sign of peace, but the heathens reign, oh yes they reign, and it won't be for long. Get up, start slow coach, welcome the morning sun, and try to do some good work, there's plenty to be done, like giving praises unto the king. Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a More Fire Reggae Radio Show, il programma del martedì su Radio Onda Rossa dedicato alla musica reggae. Andiamo a iniziare con un pezzo chiamato Slow Coach di Garth Dennis. Garth Dennis, uno dei membri fondatori dei Black Uhuru, nonché è membro dei Wailing Soul. Get up, it's that slow coach, you're moving much too slow. Get out of your slumbering, there ain't much time to go. You got to stand and be a man, let the nation know your plan. This world is in a crisis, seeking humanity. Look into the Middle East, there ain't no sign of peace. But even strange, oh yes there ain't. And it won't be for long. Get up, start slow coach, you're gesturing too long. The youth have been so patient. È ora di svegliarti, Mr. Slow Coach. Questo è il testo del brano. Si è aspettato troppo a lungo, è ora di reagire. Rimaniamo sempre negli anni 70 col prossimo pezzo che si chiama Our Forefathers Died in the Sand. Lui è Cal Moore, la produzione è di Phil Pratt. Sempre Radio Onda Rossa, sempre More Fire Reggae Radio Show. I want to go where the milk and honey flow. I want to go build a milk and E a qualcuno sarà venuto in mente John Holt e la sua Strange Thing, la base della quale è ripresa in questo ultimo brano che abbiamo ascoltato, in chiave un po' più acustica con le percussioni, un po' più Naya Bingy. Sul piatto abbiamo la prossima stampa, una ristampa per meglio dire, il pezzo del 1976 era già raro quando è uscito da quel di North West London. Loro sono i Jazzaro People, il gruppo di Everan Thompson, e il pezzo si chiama Suffering e andiamo a sentire il dritto ma anche il rovescio con la timba version. Thank you. make we rub this kimba, shake this kimba, come up by your gender. No give me no susumba, me only lick up me timba. Fire baby than lead, than red, than red, this a one yard timba. This a one yard timba, timba no kimba. Only timba can rimba, yeah, this a one yard timba. Can't stop playing this timba version, ipnotica e serrata nel ritmo. Contento di questa ristampa, come contento anche di quella che andiamo a sentire tra poco. Lui si chiama Freddie Clark, il pezzo è Home We Want To Go ed entriamo nei fine 70, quindi si sentono le influenze funk e disco anche in questo pezzo decisamente reggae roots. Let him Repatriation is a must, ed era necessario questa extended version, sentirla fino all'ultimo solco, una ristampa recente bellissima questa, così come il lato B con Debbie Rivers, già Light Shine On Me. E continuiamo con dei pezzi crucial, la prossima ristampa di Jafinger, già credo al secondo o al terzo giro di pressa. Lei è Sharon Little, il pezzo si chiama Don't Mash Up Creation, uscita anche sull'etichetta di Jashaka. Listen to me brother, you too my sister, even all the creation, we don't want no destruction. So don't mash up creation, build it up and save our nation. Let me tell you, don't mash up creation, build it up and save our nation. Un messaggio a tutti, fratelli e sorelle, a tutte le creature, non distruggete la natura, ma anzi, costruitela e fatene la vostra nazione. Lyrics, queste di Sharon Little, a distanza di quasi 40 anni dalla prima uscita di questo pezzo del 1981, ristampato recentemente da Jafinger per la Common Ground. Always Mash Up the Yard When It Played, così come il prossimo pezzo uscito originariamente l'anno successivo, ovvero il 1982, e ristampato sempre in tempi diciamo moderni dalla Pressure Sound. Si tratta di Water Pistol di Tony Brutus. Tony Brutus, artista che credo abbia fatto soltanto questo disco, che poi è arrivato a costare al tempo anche $300. Così come la ristampa è arrivata a un'ottantina di euro. Il pezzo racconta di un episodio, chissà se è capitato allo stesso Tony Brutus, è accaduto nel Central Park di New York. Dice: io ero a camminare, a fare una passeggiata nel Central Park, quando due criminali mi hanno aggredito per portarmi via la mia ragazza. Uno era americano, l'altro era portoricano, ma loro non si aspettavano di trovare uno yardman, che è un modo per dire un giamaicano in sostanza. E quando si sono resi conto di chi avevano davanti, che io avevo tirato fuori la mia water pistol, una pistola a giocattolo, credendo fosse vera, si sono dati alla fuga, e il poliziotto che è intervenuto ha riso di questo fatto. Più o meno questo è il testo. La morale, dice lui, è che deve essere chiaro che a New York devi stare attento e guardarti bene dai criminali, ma soprattutto se sei un criminale da chi hai davanti, perché alla fine il giamaicano, lo yardman, è sempre più bad di tutti. So, lasciamo la parola alla musica. Siete sempre su Morfire, questa è Radio Onda Rossa, sostenetela, e fra poco manderemo poi un jingle riguardo a venerdì 22, ci sarà all'interno della manifestazione che si terrà alla SNIA sul cibo di strada, ITAP, il concerto di 99 posti a sostegno appunto della nostra radio. Central Park in the city of New York. Two criminals want to take away my girl. I had to reach for my water pistol. Reach for the water pistol. One was American, the other Puerto Rican. Them no check fit, no yard man. Two criminals want to take away my girl. I had to reach for my water pistol. Yeah. I went for a walk in Central Park in the city of New York. Here comes two criminals, they want to take away my girl. I had to reach for my water pistol. Reach for the water pistol. Stop, stop, stop. Open Says a me, here comes Rastaman, aprimi, arriva il Rastaman, venuto come un genio della lampada per liberare i popoli e portare la rivoluzione, un po' come ha fatto la reggae music per molti versi e continua a fare, in un modo in cui il wisdom is respected, hatred is rejected, la saggezza è rispettata, l'odio è rifiutato, quantomeno questo è il messaggio del reggae che suoniamo qui a Morfai a Radio Onda Rossa. Loro erano gli Steel Pulse, gruppo cruciale del reggae britannico che è esordito con l'album Answer Revolution e che con i suoi temi di protesta, anche grazie a congiunzioni storiche come il punk che irrompeva nella scena in quegli anni, hanno avuto modo di diffondere il messaggio Rasta e anche con delle piccole rappresentazioni teatrali con dei travestimenti sul palco, come nella traccia Ku Klux Klan, in cui indossano cappucci e abiti lunghi. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Yeah, nah. Standing on the corner, reasoning with your brethren. You never mean no trouble. You never do no harm. Taking it cool and calm, and so we are one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. Yeah. Over in the ghetto, tribulations I know now. Never seem to leave I and I bedrooms. No time at all, no time at all. No time at all. Corner, conversing with your sisters. You never mean no trouble. You never do no harm. Taking it cool and calm, and so we are one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. Israel Vibration, standing in the corner, reasoning with your virgin and sistren, you never mean no trouble, you never do no harm. Cool and calm è un po' le caratteristiche del Rasta, che anche nei momenti di tribolazione mantiene la calma e la capacità di reagire. E la storia degli Israel Vibration è un po' la parabola di questo. Infatti i tre membri si conoscono in un istituto di riabilitazione dove erano in cura per una epidemia di poliomielite e nel 1976 si rincontrano e, sostenuti dai 12 Tribe of Israel, pubblicano i primi tre album, il secondo dei quali prodotto ai Tuff Gong Studio, visto la stima che lo stesso Marley aveva nei loro confronti. Questo pezzo è del 1988, quindi dagli anni 70 ad inizio puntata ci siamo spostati sempre più avanti e proseguiamo fino al 2005, anno in cui sulla Mr. Tipsy Record esce la devastante Policeman, cantata da Joseph Phil insieme ad alcuni membri dei Culture, il suo gruppo, e Sly Dunbar e Robbie Shakespeare. Protection we need, Lord. Yeah. They brought you in this society to protect us. Now you start to treat us like a dog. Don't even respect that I am your brother. And a civilian like brute. Policeman, where is the respect gone? Oh Lord, policeman, where is the respect gone? Yeah, policeman, where is the respect gone? I don't hear you when you say, policeman, where is the respect gone? You look at my grandfather with his gray beard. Turn and deliver, they call him a boy. Think of a puppy at my grandfather's age. Do you believe that he's a small dog? Oh, policeman, where is the respect gone? Oh yeah, policeman, where is the respect gone? You lost it, policeman. We'll be right back. Sly Dumba, Robbie Shakespeare and the Aircraft Posse in questa Policeman Theme version. E mentre siamo arrivati a 45 minuti di puntata, andiamo avanti con un ultimo brano e a seguire lo strumentale. Prima di lasciarvi all'ultimo spazio che sarà dedicato agli eventi di fine settimana, prima di tutti, venerdì 22 il concerto dei 99 Posse a sostegno di Radio Onda Rossa, che si terrà alla ex SNI all'interno della manifestazione culinaria Eat Up Cibo di Strada. E a seguire sabato 23 i 25 anni di Villa Ada Posse, festeggiati appunto a Villa Ada insieme a tanti ospiti e amici. E allora compiamo un ultimo balzo di questo viaggio dagli anni 80 al 2023 con un pezzo di Haskalah Selassie che mantiene forte il legame con quegli anni, perché cantato su una base ripresa da Matt Professor degli Aswad, ovvero Warrior Change, strumentale e cruciale nella reggae music, ma anche tema centrale del film Babylon. Survival, Haskalah Selassie, è classe 1984, il più giovane membro dei Wailers all'età di 21 anni, membro femminile. E l'abbiamo vista muoversi tra il reggae anche con produttori italiani come Bizzarri, fino a quella che viene chiamata la dub con Baldini e come MC a Rototom di Blackboard Jungle quest'estate. A seguire uno strumentale che fraseggia su Warrior Shade di Yaswa, come abbiamo già detto, mentre ci avviciniamo alla fine della puntata, ovvero al momento dedicato agli eventi di fine settimana. Ricordiamo nuovamente venerdì 22 settembre, 99 poste live a sostegno di Radio Onda Rossa all'interno di Itap Cibo di Strada dal Mondo edizione 2023, festa del cibo che si terrà al CSOA ex SNIA, centro sociale per chi non lo conoscesse situato in via Prenestina 173, open hack degli Scasso, il DJ set a seguire di CES Pazza Gioia da Roma Est, sound system montato Monkey Man, inizio concerti alle ore 22. Mentre per quanto riguarda sabato 23 settembre l'appuntamento è con i 30 anni di Villa Adaposse, la storica reggae band romana nata nel periodo del movimento studentesco della Mantera dei primi anni 90, ad accompagnarli oltre alla Madhouse Band altri ospiti e amici come Dando dei Colle del Fomento, Puppa Clava da One Love Power, la Centrale Sound System da Civitavecchia, Rasta Ciccio, Gillo MC, Aspra Posse e Rasta Lady. Il live inizierà alle 21.30, andrà avanti fino a mezzanotte, dopodiché scatterà una dancehall fino alle 3.30. E con questo per questa puntata è tutto, vi diamo la buonanotte a tutti e a tutte lasciandovi a due brani delle band appena citate. Bella, ciao! Bella su Puppa Raina di Villa d'Aposse, questo è un invito a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Morfire. Se siete liberi vi aspettiamo il 23 settembre, che è sabato, a Villada per festeggiare i 30 anni da Villa d'Aposse con tutta la full crew al completo e tanti ospiti. Ci vediamo sabato, bella! Quando ci vedi è chiaro dall'abbigliamento che non siamo cambiati come cambia il vento, cresciuti in una villa, un'osi nel cemento, il fuoco brucia meno però non si è spento. È tanto che non ci vediamo, ma sei qui tutto intero come bunker di Villada. La guerra è finita e tu non lo sai nemmeno, con la mano nella mano, che sarà lo vedremo dopo tutta questa strada. Sotto un sole caldo che brilla, manco pare di sta in città. Noi che stavamo vivendo il nostro tempo, tanto per cantare. Chiudo gli occhi e come prima e morì. E chi c'è qua con la villa si combina come tanti anni fa. Ognuno camminando col suo tempo e le sue verità. Un desiderio si è esaudito, siamo durati più dei Beatles. E mo so 30 che ci ascolti, manco se ne siamo accorti. So volate da autostrade ed aeroporti. E un'altra cosa l'ho imparata, e vive il mondo alla giornata. Ed ho sempre ringraziato sin da quando ho cominciato per l'amici e per l'amiche che ho incontrato. Anni sul pratone di Villada con la chitarrina trancilomme una partita. No, non me scordo de forse un giorno a core con l'amici miei, affetto dalla sindrome de Peter Pan. Ti chiamo per convincerti a fare una jump al Dano. metti a suonare. Ma non ti accorgi che oramai c'hai una certa età. Inizia la tensione e tutte sta addormentando. Preso a rincorrere i suoi guai. Questo è il momento per volare high sopra i ciocchini, gli infami e va mai. Più passa il tempo e più lo sento che ci manca l'aria de festa degli anni 90. Da Pergola a Milano, in Salento fino a Branca. Ma è un altro reading che si canta. Quando la musica sembra sia finita, sorridi sempre e pensaci un po' su. Si apre un'altra splendida serata con i tuoi amici di villata. Crew, adesso posso dire che è stato grande passare questi anni in vostra compagnia. Adesso che rivedo tutto ogni istante, un sogno lungo anni che ancora ci porta. Fire Radio Show, Onda Rossa, siamo Fabio B e Gianni. Minchia, quante informazioni. More Fire Radio Onda Rossa. O Zulu sta qua in un po' di difficoltà perché non si ricorda mo tutti i nomi dei protagonisti, però More Fire se lo ricorda e lo consiglia, anche perché Radio Onda Rossa è garanzia. Venerdì 22 settembre, 99 posti e live a sostegno di Radio Onda Rossa all'interno di Eat Up, cibo di strada dal mondo, edizione 2023. Open Act della Scasso Family, il gruppo di casa. DJ set di CES, Pazza Gioia da Roma Est, sound system montato dei Monkey Man. Inizio concerto alle ore 22, sottoscrizione 5 euro a sostegno di Radio Onda Rossa, il tutto alla SNIA. Scena in prezzo, mamma mia, c'è sta manifestazione, bud della polizia, votta votto, curdone, fu bud della mezza via, lotto l'occupazione, da fai una mare ne via all'università riunione. Se fa sere manifesto, si chia con le verze a casa, fa mezzanotte, con l'amice va svariato, torna quattro mattina a casa tua, te va cuccato, fai 3-4 ore suona e te vai nasce da mamma, si nalota una mattina, te vuoi mettere a studiare, io mi faccio mezza tanto, tutte orna a fatica, non pensiero, non ossessione, ma con cosa sa da fate riga, basta, basta, basta. Ma mentre sto qua cantando e ballando a casa. funziona, ma qualcosa sa da fare riga. Basta, basta, basta, non posso più stanco. Po' 7:40, mamma e papà. Ricatta l'ossessionata, manda nuda parassita. Ma sta storia da farni, voglio salaria garantita. Ho salaria garantita. Voglio salaria garantita. Oloms e lens. Morfire, Radio Onda Rossa. O Zulu sa qua in un po' di difficoltà perché non si ricorda mai tutti i nomi, però Morfire se lo ricorda e lo consiglia, anche perché Radio Onda Rossa è garanzia. Raggia Maica, ma capisce la ciaritta.